Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. La voce dell'innovazione, sono le 16.33, io sono Luca Tremolato, un credito ritorno non io ma il dottor Guido Romeo che è intervenuto. Dottore, torno come dottore, adesso grazie. Non dare tutto il curriculum altrimenti la gente non è che se ne va proprio, chiude la radio, la strappa via. No, allora oggi insomma quando dico Guido Romeo insomma parliamo di scienza, parliamo in questo caso dell'OGM, ci chiediamo però, facciamo un passo in avanti, a cosa servono gli OGM e a chi servono gli OGM? Vera innovazione o sono solo patate? O sono solo patate, ma prima le news. Quattro adulti su cinque ritengono che l'accesso ad internet sia un diritto fondamentale, mentre la metà crede che la rete non dovrebbe mai essere sottoposta a regole. Lo rivela una ricerca mondiale condotta da BBC World Service. Un sondaggio tra 27.000 persone di 26 differenti paesi ha mostrato che il 78% degli internauti ritiene di avere più libertà grazie al web, mentre 9 intervistati su 10 hanno affermato che internet è un buon luogo dove imparare. Nuovi dettagli sul futuro tablet di Microsoft che si chiamerà Courier. Stando alle ultime immagini e informazioni fornite dal sito Engadget.com, il lettore di ebook presenta due schermi sensibili al tocco e quando è chiuso ha le dimensioni di una foto, 13x18 cm. La Cina si è impegnata a punire i pirati informatici che hanno attaccato il sito web della compagnia americana Google se verrà provato che sono cinesi. Lo ha dichiarato ieri all'agenzia di stampa Nuova Cina il vice ministro dell'industria e dell'informatica. Il vice ministro ha aggiunto che Pechino non ha finora ricevuto una denuncia scritta da Google. Insomma, quella di Google e della Cima è una telenovela chiarissima, proprio quelle brasiliane, non so se hai presente. Tu guardavi le telenovele? No, mai. No, io guardavo Dallas, ero più sul texano. No, pensavo dicessi, no, io guardavo il dizionario, leggevo il significato delle parole. No, allora, invece, torniamo a Bomban, torniamo sul tema degli OGM e abbiamo in collegamento Piero Morandini, biologo dell'Università di Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, siccome sono passati un paio di giorni, facciamo un po' il sunto, no? di quello che è successo in Europa, delle ripercussioni in Italia, di quello che è il vulnus della situazione. Insomma, ripartiamo dalla patata. Via. Gli OGM sono sempre un tema bollente in Europa. Erano 12 anni che Bruxelles non approvava una nuova varietà, ma la settimana scorsa è toccato alla patata Amflora, sviluppata da BASF, non per il consumo umano, ma per la produzione di amido da utilizzare nell'industria. Per il commissario europeo alla salute, John Daly, l'approvazione vuole essere il segnale che il sistema di valutazione europeo è solidamente basato sulla scienza. Per il commissario, inoltre, ritardi come quelli sperimentati nel caso della patata tedesca rischiano di inibire l'innovazione. Daly ha perciò sottolineato che in campo di novità tecnologiche il principio guida del suo mandato sarà quello di favorire un'innovazione responsabile. Sulla decisione europea sono piovuti gli strali di molti governi e regioni che rivendicano il diritto a rimanere OGM free, ma anche le critiche degli ambientalisti. Molti, come Greenpeace, paventano il rischio di un trasferimento di geni dalla patata OGM ai batteri del terreno. Un'eventualità che per gli scienziati ha praticamente la stessa probabilità di veder risorgere i dinosauri. Tra l'altro prima con Guido stavamo cercando di studiare le analogie tra questa situazione e il riscaldamento climatico. Ma sì, con questo poi possiamo anche chiederlo a Morandini, ma a me sembra, anzi facciamo una domanda direttamente a Morandini, ma a me sembra che sia un po' come la questione del riscaldamento climatico, cioè per gli scienziati è una questione che è una controversia che non esiste, quella degli OGM. Della sicurezza degli OGM. Domanda, no. Allora. Sì, è vero Morandini che non esiste per voi questa questione? Allora, nonostante quello che viene riportato sulla stampa dove sembra che la comunità scientifica sia divisa, la comunità scientifica sugli OGM concorda in una maniera formidabile, cioè lei prenda per esempio l'Italia, ci sono 12 società scientifiche che si sono espresse, che totalizzano più o meno 10.000 ricercatori, la maggior parte del settore pubblico, e hanno dato il risponso molto chiaro: gli OGM in commercio oggi sono altrettanto sicuri, se non più sicuri, di quelli delle varietà convenzionali. Quindi insomma siete tutti d'accordo sul fatto che non ci sono in realtà studi che dimostrino degli effettivi rischi, ma la domanda che ci ponevamo anche un po' con la scheda è qualcosa di innovativo, soprattutto quest'ultima patata anflora che abbiamo visto, oppure è un'innovazione vecchia che nasce vecchia, perché in fondo è stata 12 anni nei cassetti della Commissione Europea per essere approvata? Sì e no, cioè come tecnologia è innovativa, però non si inserisce in modo totalmente nuovo rispetto a tutta la tradizione di modificazione dei geni che è andata avanti per 12.000 anni e più recentemente tramite tutti i... Ecco, ma ci spieghi bene a che cosa serve nello specifico questa patata? Perché abbiamo capito che non serve... Non sarà da mangiare, non serve a produrre alimenti e non sarà neanche il principale uso quello per gli animali. E che cosa ce ne facciamo dell'amido di questa patata? Allora, la particolarità dell'amido di questa patata è che è essenzialmente solo di un tipo. La patata contiene due tipi diversi di amido, l'amilosio, che è il lineare, e l'amilopectina, che invece è tutta ramificata. Avere una patata che è fatta solo di amido, che il cui amido è fatto solo da amilopectina, La rende molto adatta per tutta una certa serie di applicazioni, perché è molto viscoso come amido. Cosa vuol dire? Lo posso usare per la carta, lo posso usare per i cosmetici, per tutta una serie. Lo posso usare per esempio nei pozzi petroliferi. Io faccio il pozzo petrolifero, mentre trivello tutti i fanghi, è meglio che rimangano in sospensione. Se gli metto una soluzione viscosa di amido, è l'opzione più semplice, la più biodegradabile e la più sensata da usare in quelle condizioni. Per cui la patata verrà usata per produrre amido che ha tutta una serie di applicazioni industriali. Ecco, ma per l'Italia, cioè visto che noi pozzi di petrolio non è che ne abbiamo. No, certo. Allora, per l'Italia, essendoci una produzione di patata che è molto ridotta e probabilmente non essendoci interesse, tutto sommato per l'Italia non è che cambierà molto. Ecco, voi giustamente hai ricordato, insomma, c'è un consenso, direi, anzi ha detto lei, unanime sulla pericolosità o meno degli OGM. Io innanzitutto chiederei anche ai nostri ascoltatori che idea si sono fatti, insomma, i titoloni dei giornali sono passati, per cui insomma la questione si è un po' sedimentata. 824-00-24 è il numero verde, 349-238-6666 sono gli sms. Ma vorrei tornare a bomba: se è vero che l'utilizzo di questo amido ha scopi puramente industriali, perché non si è ragionato su quello che possono essere l'utilità? Perché il tema utilità e OGM sono ancora due questioni un po' neglette? Questo bisognerebbe chiederlo a chi decide, perché in genere chi sviluppa gli OGM li sviluppa proprio in vista di una loro utilità, e posso fare tantissimi esempi al riguardo, dalle piante che si proteggono dagli insetti e che quindi non hanno bisogno di essere spruzzati di pesticidi, alle piante che semplificano il tipo di coltura perché rendono più facile il controllo delle erbacce, alle piante che magari sono arricchite in certi componenti, per cui gli scienziati quando li sviluppano hanno chiaro il motivo per cui li sviluppano. Che questo in genere non transita, non arriva né sui media né alla politica, e quindi ha paura in qualche modo a prendere posizione. Non ci sono anche ragioni di ordine più squisitamente economico, cioè di diritti intellettuali sulla proprietà, che stanno anche un po' confondendo quelli che sono i termini della questione, nel senso che quando si parla di OGM di solito ci sono anche, dimmi se sbaglio Guido, dei brevetti I brevetti in realtà ci sono per tutte le sementi, non solo per gli OGM. Poi gli OGM possono essere dei brevetti più particolari, ma Morandini, lei ce lo spieghi lei, perché le tolgo, allora, le rubo il mestiere, se no. Io cerco sempre di separare le varie questioni. La questione brevettuale esiste, ma quando voi aprite un software tipo l'Adobe Acrobat o anche solo l'Acrobat Reader, vedete che vi compare una schermata con tutta una serie interminabile di brevetti. I brevetti sono pervasivi nella nostra società tecnologiche, pensate ai telefonini, alle macchine, sono tutte coperte da brevetti. Questo chiaramente non inibisce né lo sviluppo dei prodotti, né il fatto che la gente acquisti i prodotti, che li usi, e anzi il brevetto è un motore formidabile perché mette subito a disposizione tutta una serie di informazioni. Quindi lungi la battaglia al brevetto, era più sulla proprietà intellettuale che era il tema, cioè su chi poi è proprietario di determinati sementi o di determinati alimenti. Certo, ma questo vale anche per tutta l'altra tecnologia, non solo, i brevetti scadono, dopo un certo numero di anni, diciamo la durata totale è 20 anni, ma la durata utile poi si riduce a 10-15 anni, anche meno, quello che abbiamo è che chiunque può rifare le stesse cose e non ha bisogno di pagare più nessuno, per cui tocca poi al consumatore decidere se gli conviene o meno comprare, lo stesso con la semente. Ma ecco, per il consumatore, perché credo che fosse a questo che Luca volesse poi arrivare, qual è l'utilità per il consumatore? Umberto Veronesi ci spiega sempre che il mais BT ha la pannocchia che si infetta meno di aflatossine e quindi ci presenta meno rischi di tumore, ma l'utilità vera il consumatore sicuramente, sicuramente non la vede, ma comunque non la percepisce. Certo. È qualcosa di nascosto che dobbiamo rivelare o c'è... È per un motivo molto semplice, che la stragrande maggioranza dei prodotti transgenici che vengono coltivati sono fatti per l'alimentazione animale, almeno nei nostri paesi. Cosa vuol dire? Che viene coltivata la soia e il mais transgenico, che vengono usati per dar da mangiare agli animali. Ora, l'Italia non li coltiva, i piante transgeniche, ma ne consuma una quantità incredibile. Si parla di 4 milioni di tonnellate ogni anno fra soia e derivati della soia che vengono importati. Vengono importati da Brasile e Argentina, essenzialmente. Cosa vuol dire? Che sono transgenici fra il 50 e il 100%. Ecco. Il consumatore non li vede, essenzialmente, ma le nostre bestie sì. Ecco, il consumatore si chiede anche, io leggo un sms che è appena arrivato, se esiste o meno un monopolio di semi da parte delle multinazionali. Nova Lab 24. Allora, 16.46, Luca Tremolada, Guido Romeo, parliamo di OGM. Adesso, prima di rispondere alla domanda sul monopolio dei semi da parte delle multinazionali, sentiamo una scheda di Guido Romeo che dà un po' di numeri sulla diffusione, un po', insomma, fa un po' quello che si dice lo scenario. Soia, mais, colza e cotone, ma anche zucca, riso, erba medica, pioppi, barbabietole, pomodori, peperoni e papaya. Se in Europa gli OGM perdono terreno a causa del garbuglio di divieti nazionali e locali, nel resto del mondo le colture geneticamente modificate registrano una crescita stabile, secondo le cifre dell'ISAA, il Servizio Internazionale per le Agribiotecnologie. Gli Stati Uniti sono saldamente in testa, con oltre 64 milioni di ettari coltivati, soprattutto a soia e mais. Ma l'espansione maggiore delle colture OGM è nei paesi in via di sviluppo. Qui, nel 2009, la superficie con sementi OGM è aumentata del 13%, o 7 milioni di ettari rispetto all'appena più 3%, 2 milioni di ettari, nei paesi industrializzati. Il che vuol dire che il 46% della nuova superficie seminata a OGM nel mondo è nelle economie a più rapida crescita. A guidare questa espansione c'è la Cina, che ha recentemente approvato varietà di mais e riso, ma anche India e Sud America vedono crescite fortissime. E per molti, nei prossimi anni la curva è destinata ad impennarsi, con l'arrivo delle prime varietà OGM destinate alla produzione di biofuel. Allora, in ordine, il ruolo delle multinazionali in questo business, professore? È chiaramente preponderante in questa situazione. La cosa non è che mi esalti o mi deprima troppo. Il maggior responsabile di questa situazione è la normativa, specialmente quella europea, che deprime totalmente ogni possibilità alla ricerca pubblica di poter emergere con prodotti. Do un dettaglio molto semplice. Sviluppare una nuova varietà di transgenica comporta costi di decine di milioni di dollari, comporta tempi lunghissimi, nel caso di vari anni, 7-8 anni, nel caso della Manflora abbiamo visto si parla di quasi 15 anni, e quindi nessuna università, nessun centro di ricerca pubblico ha le risorse finanziarie, la voglia di combattere contro una burocrazia allucinante che essenzialmente non è basata sulla scienza. Ecco, ma adesso faccio una domanda stupida, ma ha senso parlare di OGM open source? Cioè, ha senso provare a ragionare se queste tecnologie possono essere di fatto la risposta alla grande promessa di risolvere determinati problemi globali come la fame, come il fatto di avere un'agricoltura resistente alla siccità? Cioè, perché non si coglie questa sfida con una chiave che, insomma, superi da un certo punto di vista il tema della proprietà, delle multinazionali, del guadagno, del profitto? Non vorrei sembrare troppo Avatar style, però è una domanda. Questa è un'ottima domanda e di fatto ci sono già tutta una serie di progetti che vanno in quella direzione, perché sono fatti dal settore pubblico, e il settore privato non è così refrattario a questi temi. Infatti il Golden Rice, che entrerà in produzione fra uno o al massimo due anni, a cominciare dal sud-est asiatico. Ci spieghi che cos'è il Golden Rice, professore? Golden Rice è una varietà di riso che è arricchita in provitamina A, che dovrebbe... rappresenterà molto veramente la soluzione a tutta la carenza da vitamina A per tutti i popoli che si basano sul riso. E la carenza vitamina A? È una carenza che causa da un quarto a un mezzo milione di morti ogni anno. Da un quarto a mezzo milione di bambini che diventano ciechi ogni anno, e da una maggior parte di questi che muoiono dopo poco tempo. Quindi dicevo, il Golden Rice rappresenta un esempio evidente di ricerca pubblica finanziata anche da fondazioni, che va che cerca di andare nella direzione di aiutare i paesi poveri, che non è stata disprezzata dalla ricerca privata, ma anzi è stata aiutata, perché c'è tutta una serie di brevetti che sono stati concessi gratuitamente per l'uso, per riuscire ad arrivare al risultato. Quindi quello che lei dice, professore, in sostanza è che in Europa ci siamo un po' bloccati da soli sul fronte invece più interessante, cioè abbiamo imbavagliato la nostra ricerca sul fronte agribiotecnologico con lacci e lacciuoli, e in realtà c'era tutta una prospettiva di mercato globale, di economie che stanno esplodendo demograficamente, quindi hanno bisogno di produzioni agricole sostenute, che invece sarebbero state interessanti anche a non necessariamente ai prodotti come quelli del mais BT delle multinazionali, ma anche a tante piante orticole come quelle che abbiamo in Italia. Certo. Sì, professore, la sensazione, ma mi dica se è che l'Europa si vada sempre più configurando come un po' una boutique radical chic da un certo Castello punto. Castello Europa. Di... Sì, nel senso che stiamo forse inseguendo delle battaglie, dei temi che probabilmente sono anche giustificati, che però ci escludono da quelli che sono i processi produttivi che avvengono nel resto del mondo. Non solo, la cosa interessante è che opponendosi in questo modo... forte, diciamo, allo sviluppo di una tecnologia propria nostra, non facciamo altro che fare il gioco di tutti i contadini, per esempio, del Nord America o del Sud America. Cioè, se noi ci tagliamo le gambe e non abbiamo più innovazione e abbiamo un calo di produzione, quello che succede è che gli altri vendono di più i loro prodotti a noi europei. Per esempio la soia, l'Europa in Europa totale importa 50 milioni di tonnellate fra soia e derivati. Ma... quelli ci arrivano Ma Morandini, ma invece c'è l'altra faccia della medaglia, cioè il fatto di creare un'Europa che è anche un'oasi da un certo punto di prodotti certificati, se vogliamo dire in un certo modo, è sensato o no? Cioè qui dove c'è Guido Romeo che dice no subito. No, non siamo non siamo un'oasi. Adesso Morandini lo sa meglio, lo dice anche meglio di me, ma siamo pieni in realtà di OGM, di prodotti OGM, perché quello che mangiano le nostre mucche, i nostri maiali e quello che mangiamo anche noi in realtà non viene solo dai nostri campi, ma viene da un mondo globale. È così, Morandini? Assolutamente sì. Voi potete andare sul sito della FAO e vedere questi numeri comparire molto efficacemente. C'è tutta una serie di siti su cui la gente si può documentare, a cominciare da salmone, www.salmone.org. Un sito di Dario Bressanini che è ottimo per divulgazione sugli OGM, il sito di biotecnologia. Se io posso suggerire, di Michael Pollan, Il dilemma dell'onnivoro, cioè un libro che insomma ripercorre la storia anche dell'agricoltura, del cibo, è estremamente interessante. Interessante, solo che non lo consiglierei in toto, ma questo ne possiamo discutere un'altra volta. Va bene, questo sarà il tema della prossima puntata. Piero Morandini, grazie. Io ringrazio Guido Romeo. Sul cibo ci torniamo, perché mi sembra che sia un temone. L'appuntamento invece è alle 16:30. Ciao.